Radio de Furlan. Tutto un'altra lenghe, tutto un'altra musiche. Buonasera a tutti, inizia Zardis Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, dalle ore 20 alle 21.30 circa. Trasmettiamo sui 90 MHz qui da Udine e andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione, ovvero Retribution dei Behind Enemy Lines. Bene, questa era la sigla di questa trasmissione, la sigla erano i Behind Enemy Lines e la trasmissione Zardis Magnetics, iniziata ora dalle ore 20 circa fino alle 21.30, qui in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. E andiamo ora all'ascolto di questa band della zona di Bologna. Loro è un gruppo femminile. La loro prima uscita su album 12 pollici dopo già un'uscita discografica per un 7 pollici. Comunque loro sono le Hile e questo è il loro album Weapons Have Hermed, datato 2019, o, insomma all'inizio del 2020 quasi. Buonasera ai radioascoltatori, e per questa nuova puntata di Zartins Magnetics E oggi parleremo un po' di aggiornamenti su un episodio repressivo avvenuto mercoledì scorso ai danni di una compagna che si è vista e ha subito una perquisizione. Scusate, abbiamo un po' di fischi qua in cuffia e speriamo che non ripercuotano anche sull'ascolto. E quindi aggiornamenti sulla perquisizione ai danni della compagna e poi proseguiremo un pochino con tutte le varie riflessioni che già da un po' di tempo a questa parte si stanno facendo, partendo un pochino dalla questione Covid e Green Pass, ma per andare un pochino oltre a ragionare su tutte le manipolazioni che stiamo subendo e le mistificazioni che partendo da questo stanno pervadendo un po' tutto. E comunque cominciamo dall'inizio. E mercoledì scorso una compagna dell'assemblea contro il carcere e la repressione e ha ricevuto una sgraditissima visita alle 7 di mattina da parte della Digos di Udine, che si è presentata su mandato della magistratura e a quanto pare cercavano un volantino, peraltro non rinvenuto, e di cui abbiamo alcuni stralci in quanto venivano riportati all'interno del come supporto al mandato. E sostanzialmente trattasi di un volantino che è stato distribuito a Pagnacco, dove lavora come medico di base la dottoressa che è anche responsabile dell'area sanitaria, diciamo, all'interno del carcere di Udine, e in cui si riportavano le denunce fatte dai detenuti che approfitto nel caso siano all'ascolto di salutare. E all'interno del volantino venivano riportate le denunce fatte dai detenuti rispetto alle condizioni igienico-sanitarie all'interno del carcere di Via Spalato, e venivano citati i 9 morti che ci sono stati nell'ultimo decennio all'interno della struttura, e sostanzialmente tutte cose che qua sono già state ampiamente affrontate. E da un certo punto di vista ci viene da dire che se c'è stata questa grossa mobilitazione, evidentemente la piaga, abbiamo messo il dito nella piaga. E chiaramente massima solidarietà alla compagna e speriamo che tutto questo polverone che si sta alzando serva per affrontare una volta per tutte la questione delle condizioni all'interno delle carceri. Non dico la questione del carcere, che sarebbe un po' sperare troppo, ma se non altro che all'interno di Via Spalato, così come di altre carceri d'Italia, le condizioni detentive non siano più degradanti come più volte segnalato da più parti. E oltre a questo coglierei l'occasione per alcune riflessioni tecniche, perché purtroppo, anche se da queste parti le perquisizioni non sono così pane quotidiano, sono sempre esperienze estremamente invasive alle quali spesso ci si trova un po' di fronte alle quali a volte ci si trova un po' impreparati. Vuoi anche perché di solito arrivano all'ora del caffè, quando magari siamo ancora in pigiama e i neuroni stanno ancora sognando il fantastico mondo dell'anarchia, quindi ci ritroviamo a ricevere il buongiorno da persone in divisa e quindi l'impatto non è mai dei migliori. Prima nota tecnica, praticamente scontata, ma va sempre bene ribadirla, e oltre a esigere che venga esibito il mandato di perquisizione prima di aprire la porta a chi che sia, assicuratevi di avere con voi una persona di fiducia, che può essere l'avvocato se è possibile contattarlo e se è possibile per lui essere presente. Ma considerato che spesso queste visite avvengono ad orari abbastanza improbabili, nel caso in cui l'avvocato non sia reperibile o non sia impossibilitato a raggiungervi, potete comunque chiedere che si attenda l'arrivo di una persona di fiducia, che può essere un vostro amico, il vostro vicino se ci andate d'accordo, o comunque sia una persona che voi ritenete possa darvi delle garanzie e del supporto. E questo soprattutto nel momento in cui voi siete da soli e loro sono in più di uno, cosa che avviene sempre, quindi risulta più difficile riuscire a controllare tutti gli spostamenti che fanno all'interno dell'abitazione. Seconda nota tecnica, e questa invece anche per noi è stata un po' una novità, risulta che adesso si presentino, o perlomeno in questa occasione è accaduto, si sono presentati con muniti di videocamera. Chiaramente dal loro punto di vista è stata giustificata come una garanzia o una forma di tutela del perquisito, perché sulla videocamera verrà registrato se ci sono eventualmente soprusi da parte delle forze dell'ordine, ma in realtà rappresenta un'ulteriore violazione della nostra intimità e del nostro spazio, perché considerate che una videocamera, se loro possono portarsi via volantini che magari non trovano, o computer o libri o lettere, al tempo stesso non è che possono portarsi via l'intera planimetria della nostra casa, mentre entrando con una videocamera chiaramente loro poi si portano via l'intero contenuto per certi aspetti, no? Tutti gli angoli nostri personali, in che condizioni è la nostra casa, se siamo dei maniaci dell'ordine o se abbiamo 37 gatti, se dormiamo sul divano, se leggiamo molti libri o preferiamo le piante, che detto così sembra abbastanza irrilevante come aspetto, però consideriamo sempre che come non ci piacerebbe che il nostro vicino di casa, quello che non ci sta simpatico, venga a ficcanasare in casa nostra, tantomeno ci fa piacere che le forze dell'ordine si portino via un ritratto completo della nostra abitazione. E riguardo a questo non esiste una normativa che disciplini questa forma di registrazione, quindi nel momento in cui doveste trovarvi di fronte a qualcuno che ha in mano una videocamera, voi potete tranquillamente chiedere che venga sospesa la registrazione, e eventualmente specificando il fatto che, non esistendo una disciplina in materia, è a vostra discrezione garantire la vostra privacy chiedendo l'interruzione delle riprese, e loro sono tenuti a farlo, ok? Quindi nel caso vi trovaste in questa situazione, sentitevi liberi di chiedere che vengano spente le videocamere. E questo è quanto. Chiaramente vi terremo aggiornati se ci saranno ulteriori sviluppi. E nel frattempo, a livello repressivo, sempre su questo scottante argomento delle condizioni all'interno del carcere di Via Spalato. E ricordiamo che il prossimo 11 novembre ci sarà un'udienza a carico di un compagno e una compagna qui sempre presso il Tribunale di Udine, e anche su quello vi daremo aggiornamenti. E nulla, come al solito non ci fermiamo. Intanto rimaniamo all'ascolto di questa band della zona di Bologna, un gruppo femminile, loro sono Le Hile e questo è il loro album, primo album uscito l'anno scorso in aprile-maggio, ovvero in piena partenza del Covid, e rimaniamo comunque, come ho detto, con queste Hile. We don't exist. torniamo in onda per questo approfondimento su, dal titolo Che ne dice il dottore, che nasce un po' a radice di una riflessione, o meglio di un ribollimento del sangue, avvenuto pochi giorni fa. Premetto che non vedo abitualmente la televisione, quindi spesso ho un impatto molto più scioccato rispetto probabilmente a chi abitualmente ha sotto monitoraggio quello che passano i canali televisivi. E fatto sta che sempre nel periodo dei picchetti a Trieste, durante un non so cosa fosse, se un talk show, un reality, un approfondimento, ormai questi generi tendono a compenetrarsi, e la presentatrice barra conduttrice, commentando le posizioni espresse da un appartenente al comitato, al gruppo per le cure domiciliari, che nella fattispecie è un avvocato, e commentava con faccia perplessa rispetto al fatto che probabilmente come figura professionale non aveva le adeguate competenze, e chiedeva pertanto supporto al dottor a un dottore presente in studio, che ha il dottor Crepè, ecco, mi sfuggiva il cognome, e inducendo a credere che dottore significhi medico. Nulla da obiettare sul fatto che il dottor Crepè sia come molti laureato, e fatto sta che è uno psichiatra e non un infettivologo, quindi a livello di competenze in materia il dottor Crepè ne ha tante quante l'avvocato facente parte del comitato per le cure domiciliari. E questo episodio in particolare mi ha aperto una riflessione abbastanza ampia su come ultimamente proprio le modalità comunicative siano mirate a manipolare quella che è l'opinione che si forma nelle persone. La manipolazione linguistica in realtà è un processo che viene utilizzato da moltissimo tempo e nei settori più disparati, dalla propaganda politica raggiungendo apici splendidi durante il regime nazista, ma anche sotto il regime stalinista. Diciamo che tutti i regimi totalitari di solito hanno un ministero della propaganda che riluce di doti manipolatorie, però la manipolazione avviene abitualmente anche attraverso la pubblicità e anche nelle comunicazioni normali, abituali tra persone. Però cercare di capire quali sono un pochino le caratteristiche a volte ci consente anche un pochino di prendere delle contromisure. E quindi il classico come questo è l'utilizzo di frasi ambigue. Di per sé non vengono dette falsità, ma quello che viene detto è una verità parziale. Il fatto che Crepè, ripeto, non voglio entrare nel merito della persona, ma il fatto di utilizzare il termine dottore è corretto dal momento che i laureati sono dottori, ma è fuorviante ed è una verità parziale, ossia non si specifica in che cosa sia dottore, giocando un pochino sull'associazione immediata che parlandosi di tematiche medico-sanitarie, se uno viene definito dottore probabilmente sarà un medico. E episodi come questi, io ho assistito a uno eclatante sui mass media, ma in realtà sui giornali ne vediamo ogni giorno. E questa tendenza purtroppo è diffusa anche tra chi cerca di portare una critica a, tanto ai vaccini ma anche al Green Pass. E questo spesso ci porta a giocare su un campo che è estremamente scivoloso, nel senso che se speriamo di utilizzare la manipolazione, magari inconsapevolmente anche, per guadagnare consensi, dobbiamo renderci conto anche che i mezzi a nostra disposizione sono infinitamente minori rispetto alla capillarità che possono avere i mass media. È vero che internet è un mare magnum in cui chiunque riesce a trovare un piccolo spazio attraverso il quale comunicare, però se siamo una piccola barchetta in mezzo a un oceano, poco ce ne facciamo. E quindi forse la necessità è quella di uscire proprio dalle modalità manipolative e per cercare di riportare il discorso su dei contenuti che sono più a noi affini, perché forse è anche questa la manipolazione maggiore, ossia quello di aver catalizzato l'intera discussione su vaccino sì, vaccino no, e cercando di negare tutto ciò che c'è attorno. E anche questo, la ripetizione è una tipica modalità manipolativa, e le parole complottismo e negazionismo ultimamente vanno per la maggiore. E questo quale funzione ha? Quella di familiarizzarci con questi termini, ma anche portarci un po' a una saturazione, a un senso di noia che abbassa le capacità di ragionamento critico. E basti pensare, prendo in questo momento sto prendendo spunto da due numeri della rivista I Giorni e le Notti, che hanno a mio avviso sviscerato abbastanza bene, o perlomeno hanno dato un apporto critico interessante all'intera questione, e so che anche in passato sono state fatte letture da questa rivista, e approfitto di per dire che se qualcuno volesse poi approfondire può chiederne delle copie al circolo Nave dei Folli, e via Santa Maria 35 38 068 Rovereto, Trento. E magari a fine trasmissione daremo nuovamente i recapiti. E tornando a noi, all'interno della rivista I Giorni e le Notti si fa notare come il concetto di negazionismo abbia trasceso e pian piano da un concetto che era strettamente legato alla negazione dell'Olocausto è passato a identificare le persone che negavano l'esistenza della malattia Covid, per poi estendersi a coloro che criticavano il vaccino, che sono due cose concettualmente diverse, nel senso uno può riconoscere l'esistenza della malattia, ma sia critico rispetto al vaccino, e quindi tacciarlo di negazionismo è concettualmente sbagliato. Ma questo processo pian pianino è andato in metastasi, ha iniziato a inglobare tutto, incluso per esempio le critiche mosse al 5G, che non hanno nulla a che vedere con magari chi Considera che il 5G è uno strumento impiantato appositamente per captare le onde create dal vaccino per la malattia inventata, ma erano lotte portate avanti in ambiente ambientalista, e già contro i ripetitori della telefonia mobile si parla di 20 anni fa. Ma adesso, nel momento in cui uno muove una critica alle antenne di telefonia mobile, per automatismo diventa un negazionista. Quindi questa mania di espandere e concettualizzare tutto sotto un unico cappello, che sostanzialmente nega la possibilità del dibattito, poiché se screditiamo chi abbiamo di fronte, questo ben poco ha da dirci. Diciamo che questi meccanismi in realtà non stanno facendo più danni molto più estesi rispetto alla semplice, tra virgolette, questione Green Pass, perché stanno generando un appiattimento in tutti gli aspetti del dibattito politico. E a tutto questo si aggiunge anche un altro aspetto che si può andare a ripescare da Orwell, in cui si parlava del ministero che poteva tranquillamente ogni anno annunciare un aumento delle razioni, anche quando queste diminuivano perché il passato non esisteva. E adesso potrebbe apparire che con internet a disposizione il passato non si può cancellare, ma in realtà la sovraesposizione alle informazioni sta generando praticamente la stessa cosa. E ad esempio, nel nostro caso, il recovery plan, che viene presentato come il punto di svolta e di rinascita dell'Italia, se andiamo a vedere, dei 196 miliardi previsti, alla sanità ne andranno circa 10, cioè meno di un terzo dei fondi tagliati negli ultimi 10 anni. Quindi in realtà si ripropone esattamente la stessa dinamica, ci annunciano grandi finanziamenti e tutti ci siamo dimenticati che ben di più ce ne hanno tagliati negli anni passati. E quindi forse è proprio questa l'essenza della critica alla manipolazione che stiamo subendo, l'incapacità di riuscire a uscire da parte di molti, ma è anche abbastanza inevitabile visto il livello esacerbato di scontro che troviamo nei rapporti di convivenza quotidiana, l'incapacità di svincolarci da quello che è il dettame della discussione, ossia sei a favore o contro il vaccino, il Covid esiste o no, e qua si chiude la discussione. In realtà quello che è da discutere è quale tipo di esistenza vogliamo portare avanti e a che cosa siamo disposti a rinunciare senza che queste rinunce facciano sì che l'esistenza non sia più tale. Probabilmente la sicurezza massima sarebbe se vivessimo tutti in piccole celle di vetro con filtri dell'aria e cibo in pillole, e questo ci metterebbe al sicuro probabilmente da contaminazione di virus, batteri e anche dalla grandine, però ci limiterebbe assolutamente in quello che è il nostro essere sociali, o comunque sia persone che interagiscono. Quindi forse è ora di uscire da questo da questo vortice in cui siamo stati risucchiati, per rimettere un pochino al centro quello che è la vera questione, ossia quello che vogliamo. E chiuderei con le parole di Mahmoud Darwish, che è un poeta palestinese e ha scritto questa raccolta di poesie intitolata Stato d'assedio. Come potete immaginare, fa riferimento al periodo degli attacchi alla striscia di Gaza, ma purtroppo le parole mi sembrano molto azzeccate. Questo assedio proseguirà per convincerci a scegliere una schiavitù che non fa male, ma in piena libertà. Bene, questi che abbiamo ascoltato ora, ma anche durante l'intervento precedente, erano i Raw Power, band storica del punk hardcore italiano, dal loro album datato 1983, proprio album d'esordio, band comunque di Reggio Emilia, appunto questo era il brano Fuck Authority. E ora invece rimaniamo sempre, diciamo, nella zona, anzi una cosa casuale oggi, che dopo la band di Bologna di prima, questi di Reggio Emilia, passiamo ad un'altra band di Bologna, sempre al femminile. Loro erano le Mumble Rumble, da questo loro album datato 1994. Thank you. Sì, un saluto anche da parte mia. Siamo sempre su Zardins Magnetics, Radio Onde Furlane, in diretta. E, allora, stasera io volevo così proporre delle letture su fascismo, antifascismo e sulla torsione, la manipolazione di questi concetti, e soprattutto, vabbè, che si non è l'antifascismo di Stato, diciamo, è manipolatorio ormai da molti decenni e mira, diciamo, alla pace sociale, quindi snatura anche in qualche maniera la lotta antifascista. Però in questi ultimi tempi, appunto, in tempi di lotte contro Green Pass, obbligo vaccinale e stato di emergenza, diciamo, la torsione, la manipolazione di questi due concetti è stata particolarmente intensa e soprattutto, cioè, ha avuto il suo apice dopo l'attacco alla CGIL dello scorso 9 ottobre. E allora inizio leggendo un'invettiva, la chiamo così, della compagna Nicoletta Poidimani, che si intitola Antifascismo fuori tempo massimo. Ci dice Nicoletta: ma tu guarda, ci voleva l'assalto squadrista di sabato 9 ottobre perché CGIellini e compagnia si accorgessero che ci sono ancora in giro i fascisti e ne approfittassero per spostare l'attenzione dall'estensione il 15 ottobre del vessatorio Lascia Passare Verde in tutti i luoghi di lavoro, indicando per il giorno successivo un corteo oibò antifascista. Allora Nicoletta vuole togliersi, dice, con questo articolo che trovate nel suo blog, dei sassolini dalle scarpe. Sassolino numero uno: dove erano questi sincerissimi democratici quando Giorgio Almirante, antisemita, ex capo di gabinetto del fascista Minkul Pop, poi repubblichino, poi fondatore e segretario nel dopoguerra del neofascista MSI, sedeva comodamente in Parlamento? Dove erano quando, dopo la sua morte, le istituzioni locali hanno cominciato a dedicargli strade e piazze? Sassolino numero 2. E dove erano quando Dax nel 2003, Renato Biagetti nel 2006, Nicola Tommasoli nel 2007, per ricordarne solo alcuni, venivano ammazzati dai fasci e noi scendevamo in piazza con la rabbia antifascista nel cuore? Sassolino numero 3. Dove erano quando nel 2006 Forza Nuova cercò di bloccare il Pride di Catania con l'assenso del prefetto, del questore e dei più alti dirigenti della Digos, e noi supportammo le compagne e compagni catanesi rispondendo con un orgoglioso antifascismo? Sassolino numero 4. Dove erano tutte le volte che i neofascisti hanno teso agguati armati contro donne e uomini immigrati, di cui la strage di Firenze del 2011 e l'attacco di Macerata del 2018 non sono che due casi esemplari? Sassolino numero 5. Dove erano quando la canaglia nera organizzava presidi antiabortisti fuori dagli ospedali coi suoi degni compari cattolici integralisti, e quando questa stessa canaglia nera stilava il proprio patto di sangue con la Lega? Di Sassolino in Sassolino si potrebbe continuare, ma per adesso fermiamoci qui. Dove erano questi sincerissimi democratici, semplici, erano comodamente seduti sulle loro poltrone ad infamare l'antifascismo militante, mentre concertavano allegramente con lo stesso capitale fautore della controrivoluzione preventiva l'addomesticamento, quando non l'affossamento, delle lotte dei lavoratori e lavoratrici sempre più precarizzati, ricattati e vessati? Ecco dove erano e ecco dove sono, direi, in maniera sempre più esplicita e tragica. E vale la pena anche di ricordare una cosa, delle affermazioni veramente, non so, oscene, mi viene da dire, da parte dell'ANPI, ANPI, cioè l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani di Milano, che ha praticamente messo sullo stesso piano l'organizzazione neonazista Dora, 12 raggi, e il compagno Maurizio Ferrari, che insomma ha passato decenni della sua vita in carcere in quanto militante delle Brigate Rosse, E appunto il presidente dell'AMPI di Milano ha equiparato queste Maurizio Ferrari con quest'altra organizzazione neonazi e dicendo è un oltraggio che Piazza Fontana, cito, leggo dalla Repubblica, è un oltraggio che Piazza Fontana sia diventata il punto d'incontro dei No Green Pass che ogni sabato partono in corteo paralizzando la città. Anzi, considerando la presenza dell'ex BR Ferrari e di Dora, è un oltraggio vergognoso alla memoria delle vittime innocenti della strage neofascista del 12 dicembre del 69. E non si ferma appunto con queste affermazioni oscene, e a proposito di quello che diceva anche la compagna prima di manipolazione delle, e di utilizzo delle parole per appunto per ribaltare la verità, cioè per fargli fare un salto di 360 gradi. L'AMPI anche afferma che è vergognoso lo striscione retto da Maurizio Ferrari, striscione che scriveva ora è sempre resistenza. Per loro è vergognoso, in quanto la resistenza italiana non ha nulla a che fare con le proteste di chi si oppone a vaccini e al Green Pass. Questa era appunto la posizione dell'AMPI di Milano relativamente ai fatti avvenuti lo scorso sabato 23 ottobre a Milano, appunto il 14° sabato consecutivo di manifestazioni, corteo che è finito con un arresto e svariate denunce, 83 denunce, delle quali meno di una decina di esponenti di destra, tutto il resto chiaramente no. A sentire queste parole da parte appunto di quella che dovrebbe essere l'associazione dei combattenti per la libertà, dei partigiani che hanno fatto appunto la guerra civile e la resistenza anche detta in Italia, e viene da dire che gli slogan che anche noi diciamo anche a Udine, insomma, contro il Green Pass e la sua violenza, ora è sempre resistenza, valgono e sono, anzi, vanno rimarcati, vanno diffusi il più possibile. E proprio per evitare che per evitare il dilagare dell'antifascismo di Stato, che equivale a un fascismo democratico. venga da me. Sì, parlando sempre di fascismo e antifascismo, volevo proporvi la lettura di un documento di compagni e compagni anarchici di Bologna. È un po' lungo, quindi magari lo interromperemo con dei pezzi musicali, ma comunque è veramente molto, molto interessante. Il documento si intitola Né coi reazionari né con la reazione, ovvero né coi fascisti né coi collaborazionisti. Di fronte ai fatti di sabato 9 ottobre, inerenti l'occupazione della sede nazionale della CGIL da parte di una folla arrabbiata, capitanata dall'organizzazione neofascista Forza Nuova, ogni silenzio o volontà di non vedere quanto accaduto sono provvidi dei pessimi tempi a venire. Parliamoci dunque schietto su un fatto che di qui in avanti non si potrà trascurare, e facciamolo fra chi, nel campo rivoluzionario, si fa domande sulle contraddizioni che serpeggiano nelle piazze in subbuglio, conosce bene i propri nemici di classe, si smarca da calcoli politici e nella rabbia non vede un oggetto da governare, ma un contesto dove intervenire per creare un clima accogliente alle proprie istanze di liberazione. Un sindacato che negli ultimi decenni ha instancabilmente lavorato per la ricomposizione sociale, favorendo le ristrutturazioni che il capitale ha intrapreso e assecondando così il peggioramento inesorabile delle condizioni di vita di lavoratori e lavoratrici, per conto nostro è un corpo di Stato e in quanto tale indegno di solidarietà alcuna. Inutile perdere tempo ad argomentare su quanto appena affermato. Chi ha occhi per vedere ha ben presente quel che diciamo. Il ruolo storico dei confederali è attualmente quello di un corpo sociale in collaborazione con il padronato, un ruolo storico che la crisi economica innescata dalla pandemia non ha fatto che confermare. Confindustria si attesta saldamente al governo e imposta il cammino verso la nuova normalità a suon di ricatti dal marzo 2020, con i sindacati che di fronte alle cause di forza maggiore smussano gli angoli e rendono digeribili gli amari bocconi. Il Green Pass, al di là della critica alla società del controllo e della discriminazione, non fa eccezione. È infatti una imposizione dettata dal padronato per scaricare le responsabilità sanitarie su chi lavora, senza investimenti sulla salute e sulla sicurezza nei posti di lavoro, ma anzi avendo una buona scusa per alzare i ritmi e recuperare le perdite. Esattamente come le aperture irresponsabili del marzo 2020 o i licenziamenti che si vanno compiendo da quest'estate. Che questo strumento non serva ad assicurare la sicurezza sul posto di lavoro è un dato che chiunque può acclarare. Esso infatti non certifica alcuno stato di salute, ammesso e non concesso che un documento che invece lo certificasse possa dirsi legittimo, ma direziona verso l'adesione ad un determinato programma di profilassi. Quanto a Confindustria e affiliati, importi del reale stato di salute di chi va sfruttandolo si è capito bene nel tempo, vedendo luoghi di lavoro divenuti focolai che rimanevano aperti o campagne di screening evase perché troppo costose per le aziende. Che però proprio i fascisti di Forza Nuova abbiano guidato una folla malleabile verso un obiettivo quale la sede di un sindacato collaborazionista pone problemi notevoli. Se negli anni tali soggetti sono sapientemente stati estromessi dalle lotte, era proprio perché simili fatti non venissero a presentarsi. Pratiche, infatti, su cui di per sé nulla c'è da eccepire, diventano non assumibili se i contenuti che esprimono le significano in senso reazionario. La cacciata di Lama dalla Sapienza il 17 febbraio 1977 da parte degli studenti è un fatto che sentiamo parte del nostro patrimonio rivoluzionario, perché attaccare i traditori di sfruttati e sfruttate è espressione di genuina lotta di classe. Ma i fatti del 9 ottobre, per mano dei fascisti, non sono assumibili. Sono infatti l'espressione di un populismo dilagante in grado di governare delle piazze confuse, e proprio per questo dimostrano quanto i fascisti utili siano ai padroni, rendendo torbido e sterile il conflitto sociale. E continuiamo con la lettura del documento né coi reazionari né con la reazione. Questo è in fin dei conti il motivo per cui oggetto dell'assedio non sia stata semmai Confindustria. Quando mai si è visto dei fascisti prendersela con dei padroni? L'occupazione della sede della CGIL, l'attacco ai picchetti di lavoratori in sciopero, la presenza in strada a fianco dei proprietari di casa contro il blocco degli sfratti o dei commercianti sono fatti che le destre usano per affermarsi politicamente e legittimarsi di fatto agli occhi del padronato, con cui saltuariamente millantano l'aperto conflitto. Se ci chiediamo cosa ha creato il vuoto in cui costoro si sono inseriti, dobbiamo, preliminarmente a tutto, ragionare del mal di Stato da cui la sinistra e i residui dei movimenti sociali sono afflitti, oggi più che mai. Quando le posizioni dello Stato e di Confindustria si distinguono da quelle dei cosiddetti rivoluzionari per trascurabili sfumature sui dettagli della spesa pubblica, e quando la direzione che la sinistra di classe asseconda o deliberatamente intraprende è di fatto la stessa segnata dallo Stato nel recupero della sua normalità, varrebbe la pena farsi qualche domanda. Le recenti piazze contro il lascia passare stanno proprio a dichiarare l'emersione di una contraddizione, tanto interna al sistema quanto a chi pretenderebbe di opporvisi. Tanto si è battuto sul concetto di responsabilità collettiva, senza lucidità e in modo del tutto ideologico, da non vedere come, nel contesto dell'individualismo neoliberista, un appello del genere avesse conseguenze foriere dell'esatto opposto. Una totale deresponsabilizzazione sociale, ben sperimentata peraltro durante la fase estiva della campagna vaccinale. Parlare di responsabilità sociale estesa e indistinta, slegata dalle concrete relazioni sociali, significa avallare i progetti dello Stato, di fatto l'unico in grado di gestire una tale responsabilità in assenza di una più globale riflessione sul consenso e l'autogestione. Invitare le persone a vaccinarsi, individuando nei farmaci presentati come vaccini la soluzione al problema pandemico, piuttosto che appoggiare la libera scelta, ha di fatto assecondato l'avanzamento della campagna vaccinale promossa dal governo e proiettata verso quanto ci troviamo a vivere, una nuova, orribile normalità alle porte, che si crede capace di gestire il problema sanitario, senza così intervenire sulle contraddizioni che l'hanno prodotto. Punto a capo, assai irresponsabile, insomma. Responsabilità è un concetto da cui di certo non ci smarchiamo, ma verso chi e per salvare cosa? Un mondo che pretende responsabilità e non concede nulla, che non impara nulla da quanto è successo e non dà segni di cambiamento, non sta chiedendo responsabilità, ma imponendo obbedienza. Coprifuoco, lockdown, generalizzati e lascia passare stanno lì a dimostrarcelo, sono solo un doveroso rafforzamento di questa richiesta di responsabilità dopo tutto. Si arriva così al punto in cui i fascisti guidano la rabbia dei lavoratori. Non possiamo sperare che questo fatto sarà, nell'affermarsi delle contraddizioni di classe che di qui in avanti si andranno necessariamente imponendo sempre più fortemente, un fattore ininfluente e trascurabile. No, signori, quell'assalto ha realizzato un discorso assai problematico, anche solo nell'immaginario. Il passaggio delle forze della destra estrema da un semplice piano nazionalista e populista a uno di socialismo nazionale, realizzando nella pratica le note istanze sociali del fascismo della prima ora. Can see in every sense we met you wanna hold on me. It's crazy, but it's true. You let me know a story. Di fronte Conte ha una forza politica che non le manda a dire a un sindacato che ormai tanta gente riconosce come collaborazionista. Come si potrà controbattere che i fascisti non difendono i lavoratori? Da qui indietro non si torna, o si dimostra qualcosa sul campo facendo indietreggiare il fronte padronale, oppure la partita è chiusa. Che non sia solo questo il problema, ne abbiamo consapevolezza. Le difficoltà di azione in cui ci troviamo come soggetti sovversivi sono oggettive, e dimostrare coi fatti i nostri discorsi è facile a scriversi, difficile a farsi. Siamo però altrettanto incoraggiati dagli spazi che il discorso pubblico sul tema lascia passare nell'ambito lavorativo ci può offrire per declinare in un'ottica di classe quel che sta avvenendo, smarcato potenzialmente da ambiguità e confusioni di sorta. Sarà la dimostrazione delle nostre istanze a far fuori i fascisti dalle strade e non certo il rintanarsi nell'ennesimo mal di Stato rappresentato dall'antifascismo dilagante. L'antifascismo si afferma strumento di consenso e mobilitazione ormai da tempo in mano alle istituzioni, capace di accalappiare cittadini comuni e militanti convinti, tutti spaventati dalla rappresentazione del ventennio che risorge via chat. L'antifascismo istituzionale impone una rappresentazione aberrante del conflitto sociale in corso, che con tutte le sue miserie e contraddizioni non può però ridursi all'espressione di una pura ignoranza strumentalizzata dai fascisti. L'ennesimo strumento in mano dei padroni, più che valido per tenere lontano dalle piazze quanti con camerati vari non vogliono avere nulla che spartire e che a differenza loro non rientreranno nei ranghi a comando, ottimo per permettere a sindacati e sinistri vari di zittire definitivamente ogni istanza avversa al Green Pass. Così, pure parlare di squadrismo tocca tanto il cuore di ognuno quanto afferma una menzogna. Che la CGIL d'oggi sia paragonabile alla CGDL che negli anni 20 fu oggetto della violenza fascista antioperaia, quando è evidente come la prima sia di fatto assimilabile a un organo di governo, mentre la seconda, nelle sue indiscutibili torbidezze, rimaneva un sindacato di classe, reduce da un biennio rosso del tutto rimosso dallo sfondo dell'attuale rappresentazione. Un antifascismo che conduce diritto all'inquietante gioia, così comune e preoccupante, provata da alcuni e alcune di fronte alle azioni repressive che lo Stato compie sui fascisti. Inquietudine peraltro montante, vedendo la similitudine fra i capi di accusa di cui le carogne sono fatte oggetto e quelli che molti e molte sovversive sono solite avere a carico. Istigazione a delinquere, devastazione e saccheggio, entrambi negli anni fatti oggetto di giuste analisi sui nuovi strumenti repressivi. In generale ci pare che il discioglimento di organizzazioni politiche, il sequestro e la chiusura di spazi virtuali, la censura, al di là del colore che hanno, siano segnali preoccupanti di un tempo inquisitoriale di cui c'è poco da rallegrarsi. Di solito termineremo un tale scritto con un appello alla solidarietà con cui si rivolta. Impossibile a farsi stavolta. Chi si fa manipolare dai fascisti, nella sua ingenuità e forse buona fede, ha di certo tutta la nostra compassione, ma non certo solidarietà. Chi invece fascista lo è in modo conclamato ha tutto il nostro disprezzo. Come dar seguito a tal disprezzo e come chiudere gli spazi a costoro l'abbiamo ben chiaro, e il patrimonio di cui sopra ce ne fornisce ottimi esempi, senza scomodare sbirri e giudici. Ribadiamo la solidarietà semmai a chi lotta sul posto di lavoro e fuori, a chi sceglie di resistere all'imposizione del lascia passare, a chi si organizza per opporvisi, a chi prende una posizione di classe non ambigua e chiara. Noi siamo con loro, anarchiche e anarchici di Bologna. E nell'apprezzare le parole semplici e chiare del documento, del comunicato dei compagni di, delle compagne di Bologna, che ci hanno riportato un pochino alla realtà, ossia non serve scaldarsi di fronte alle evidenze, e desideravo concludere con una poesia di Evtushenko che in parole semplici rimarca quello che secondo me deve essere un attimino la linea a cui tendere senza farsi troppo distrarre. Con fede nello Stato mi appagavo, rispettosamente la testa piegando. Non fucilavo lo Stato, non lo impiccavo, ma esso un poco impiccava me. Dinanzi agli occhi chiari dello Stato parlo, senza aspettarmi giudizio equo. Di simile perfidia indegno, perché io stesso mai perfido fui. Stato, ho cercato di amarti. Volevo esserti utile sul serio, ma sentivo che sparivo del tutto se, come al bastone il cane, ti ubbidivo. Stato, tua arroganza, servilismo sempre, regno di piaggeria, dell'azione, ostilità, del senso di patria, di quello di Stato, nell'uomo convivenza mai si avrà. Bene, se prima ci siamo ascoltati durante gli interventi la band bolognese femminile, delle Mumble Rumble, band che ha fatto questo album che si intitola K.O. Nel 1994, ora invece siamo andati all'ascolto e ascolteremo anche, dato che siamo diciamo in termine del programma, stiamo ascoltando questa nuova band della zona di Gorizia. Loro sono i No So Far, presumo sia il nome in dialetto goriziano, comunque, perché in inglese è un po' storpiato, forse c'è un gioco di parole, comunque No So Far. Save us! Bene, allora siamo giunti ormai al termine di questa trasmissione radiofonica che è Zardins Magnetics, in diretta qui dagli studi di Udine di Radio Onde Furlane. Stiamo trasmettendo sui 90 MHz, ma prima di salutarci definitivamente vi volevo ricordare l'indirizzo blog dove potete riascoltare questa trasmissione o comunque le scorse edizioni delle scorse settimane. Il blog è zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Inoltre, chi volesse contattarci direttamente può farlo all'indirizzo della posta elettronica che è liberetutti@autistiche.org. Ripeto, liberetutti@autistiche.org. Oppure può farlo in modalità cartacea alla vecchia maniera, scrivendo ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34 121 Trieste. Ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro, codice di avviamento postale 34 121 Trieste. Bene, questo è tutto e quindi l'appuntamento è per il prossimo giovedì, sempre qui dagli studi di Radio Onde Furlane, dalle ore 20 alle 21:30. Vi lascio con un ultimo brano di questa band goriziana che è proprio uscito, anzi è stato proprio registrato alla partenza del lockdown dello scorso anno, ovvero tra febbraio e marzo. E comunque, come già detto, loro sono i No So Far e ci ascoltiamo il brano da questo loro proprio demo datato 2020, proprio il brano che porta il nome della band, ovvero No So Far. Ciao a tutti e al prossimo giovedì.